Ho corrotto uno dei gorilla alla porta per passare. Qui dentro è orribile. Alla mia destra vedo una donna morta stesa per strada. Tutti le passano accanto come se non ci fosse. Ma ho notato qualcosa scritto dappertutto con la vernice. Atlas vive. Non so che significhi, ma qualcosa mi dice che per questa gente è importante. Oggi abbiamo effettuato un raid oltre il perimetro. Abbiamo recuperato 31 cartucce a pallettoni, 4 bombe a mano, un fucile a pompa e 34 Adam. Abbiamo perso McGee, Epstein e Vallette. Però in cambio abbiamo fatto fuori uno di quei dannati Big Daddy. È stato orribile ciò che hanno dovuto fare a quella ragazzina per prendere l'Adam. Ma non siamo stati noi a iniziare questa guerra. È stato Ryan. Non vedo l'ora di dirlo ad Atlas. Mi farà piacere. Ero così arrabbiata quando sono scesa qui, ma... Mio Dio, non avevo idea. Ci sono uomini armati dappertutto. Ho visto una donna scalare la recinzione per tentare la fuga. Una delle guardie di Ryan l'ha indicata e lei ha preso fuoco. Così? Ma che sta succedendo qui? La gente di qui ha imparato a fidarsi di me, l'amante di Ryan. E nonostante ciò, mi accettano. Mi hanno finalmente condotto da Atlas. Senza di lui, la gente di Apollo Square si arrenderebbe. Gli ho chiesto se intendeva guidare una rivolta contro Ryan. Ha sospirato e ha detto: non sono un liberatore. I liberatori non esistono. Questa gente si libererà da sola. Pensavo che Andrew Ryan fosse un grand'uomo. Che stupida. Mai dare a qualcuno una fregatura rapida quando puoi rifilargliene una lunga. Atlas è la truffa più lunga di tutte. Ryan voleva Frank Fontaine morto, gli ho dato solo quello che desiderava. Come Atlas, ho avuto una nuova faccia, una fedina pulita e un nuovo inizio. Ora è il momento di riprendere Rapture e... Mi farà piacere. Oh, Miss McClintock, che cosa ci fa qui? Lasci che spenga questo. Questi tristi personaggi... vengono a Rapture pensando di essere dei capitani d'industria. Ma dimenticano tutti che qualcuno dovrà pulire i cessi. Mi hanno dato una grande opportunità. La vita di questi poveracci in cambio di un piatto di zuppa calda. Chi ha bisogno di un esercito quando c'è l'ostello Fontaine? Papa Suchong! Papa Suchong! Papa Suchong! Papa Suchong! Papa Suchong! Quando ho finito con l'artista, l'ho lasciata com'era nel bagno. Ho visto che aveva una coperta mezza lavorata a maglia vicino al letto. Era carina, sai? Nera e rossa. Davvero bella. Così l'ho presa per... non so, darla da finire a qualcuno. Perché fosse utile a qualcuno. Non mi sembrava giusto lasciarla lì, tutta sola. Tutti quegli anni pensavamo di fare progressi con scatole di Skinner ed Electroshock. Che spreco di tempo. Prima dell'Adam, addomesticare un bambino era impossibile, quanto tentare di addomesticare un boa. Fontaine mi ha dato la storia da impiantare nella testa del bambino. Il bambino a questo punto non è più una persona, ma un jukebox. Pronto a suonare qualunque canzone Fontaine abbia voglia di sentire. Fontaine ha allevato un piccolo mostro. Quando parla, cioè quasi mai, il suo accento è pesante e sgradevole. E i capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato di mostarda. Ma devo riconoscerlo a Frank. La piccola ebrea è il classico diamante grezzo. Nessuno studio formale, nessuna esperienza. Ma basta metterla davanti a una sequenza genetica e diventa Mozart al clavicembalo. Fontaine è diventato una specie di uomo nero a Rapture. E quel mito gli dà forza. Ma dietro a timori e a frottole, lui è solo un altro truffatore. E come tutti i truffatori, ha paura di essere lui a finire fregato. Ecco perché ha ordinato il lotto 192, l'antidoto al plasmide di controllo mentale. Fontaine ha detto di non parlare a nessuno dell'antidoto, nemmeno la Tenenbaum. E Su Chong è incline ad ascoltare. Test clinico del plasmide sistema protettore, lotto 255, dottor Su Chong. Cliente Ryan Industries. Giornata molto frustrante. Non riesco a imprimere quei dannati Big Daddy nella testa di queste mocciose. Il legame di protezione non si forma. Papà Su Chong! Stai lontana. Forse se modificassi la sequenza genetica per... Papà Su Chong! Via! La sequenza genetica... Papà Su Chong! Papà Su Chong! Levati di mezzo, schifoso mostriciato! Cosa... Cosa stai facendo? Indietro! No, stai indietro! Indietro! È la tua cagnolina? Molto carina. Grazie, papà Su Chong. Spezzale il collo per me. Cosa? Spezza il collo della cagnolina. No, no, ti prego. Per cortesia, potresti rompere il collo della cagnolina? No. No! Molto bene. Break her neck for me. Break that sweet puppy's neck. Break that puppy's neck, would you kindly? Very good. Sembra che ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca. Perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crocca stramba quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desideri? È una cosa che va oltre la comprensione di questo paparazzo. Ha persino cambiato il codice d'accesso in 5744, forse per essere certo di non ritrovarsi la spilungona. Attenzione! I ricombinanti devono sempre portare la fascia di identificazione. Ricordate, la segregazione è per la sicurezza di tutti. Attenzione! Qualunque assembramento pubblico superiore a 4 persone è considerato un reato perseguibile. Attenzione! Mercoledì entrerà in vigore un nuovo coprifuoco. I cittadini che non lo rispetteranno verranno trasferiti ad Apollo Square. Orfanotrofio delle sorelline. In tempi difficili, date alla vostra piccola la vita che merita. Mantenimento ed educazione gratuiti. Dopotutto, i bambini sono il futuro di Rapture. Quando imparerai a obbedire agli ordini? Sto venendo da te, piccola falena. Sto venendo a insegnarti come si balla. Sento le tue ali sbattere. Flip-flop, flip-flop, flip-flop. Fatti vedere alla luce, piccola falena. Vieni! Vedo che stai ancora provando le tue ali, piccola falena. Rimani e goditi la danza se vuoi. Ma non azzardarti a interrompere il loro ritmo! L'ho fatto proprio incazzare, Ryan, quando ho cominciato a giocare al filantropo. Vorrei aver visto la sua faccia davanti al primo ostello Fontaine. Prima di rendermene conto mi facevo chiamare Atlas ed ero al comando di un esercito. Ryan e la sua preziosa Rapture. Non devi costruire una città per farti adorare dalla gente. Basta far credere loro che sono importanti. Mi mancherà questo posto. Rapture era una manna per uno come me. Uomini che pensavano di sapere tutto, donne che pensavano di aver visto tutto. Mille volte meglio un furbo che un imbecille. Credi di essere una specie di eroe? Ti ho ordinato da Su Chong come un pasto cinese. Un po' dalla colonna A e un po' dalla colonna B. Che intenzioni hai? Tornare dalla tua finta famiglia? Ai tuoi sogni fasulli? Terminare le tue pene sarà la cosa più bella che chiunque abbia mai fatto per te. Ti piace a me quanto a te, ragazzo, ma devi capire la mia storia. Ho passato 12 anni qui sotto, un grosso investimento. Non si può mollare una truffa di questa portata come se niente fosse. Mi obblighi a farti male mio malgrado, ma gli affari sono affari. Non abbatterti, non farà differenza quando questo posto diventerà cibo per i pesci. Detesto vederti in quel modo, ragazzo. Diavolo, io c'ero quando sei nato. Ma hai avuto un cane che hai dovuto abbattere. Ti si spezza il cuore. Whoops, it's not looking too good for you there. You're almost out of stuff. Sorry about that, but I can't have you running around here with a full tank. If it's any consolation, I don't bother icing people who I don't consider a threat. Ryan in carne e ossa. Perché dovrei mettermi nei guai? In altre circostanze saresti stato fatto a pezzi dal primo robot di sicurezza incontrato. Ma non Ryan. Ha realizzato le sue difese in modo da far identificare la sua struttura genetica con la metà dei suoi geni. Non sei del tutto immune, ma potrai avvicinarti abbastanza per fare danni. L'Adam è la merce definitiva, ragazzo. Basta imbrogli, basta truffe. Un monopolio sull'Adam fa sembrare la Standard Oil un venditore di hot dog. Resta solo da seppellire i corpi. E quando questi si trovano già a 6 miglia sotto l'Atlantico, si parte col piede giusto. E siamo, ragazzo. Hai chiuso. I miei nuovi amici ti raggiungeranno presto. Spero che facciano in fretta. E ora ti sei messo in combutta con la Tenenbaum. È una vera mamma chioccia, giusto? Va bene, basta con gli scherzi adesso. Per cortesia, fatti schiacciare da un Big Daddy. Eh? Ho detto per cortesia, fatti schiacciare da un Big Daddy. Pare che mamma chioccia abbia trafficato con la tua insalata mista. Se non rispondi alle vecchie canzoni, ho questo codice giallo. Ho appena detto al tuo cervello di dire al tuo cuore di cessare di battere, ma non immediatamente, no. Il cuore è un muscolo testardo, ma non troppo. Piano, figliolo. Ho ancora un guinzaglio abbastanza forte su quel tuo cervello da impedire di avvicinarti troppo al mio trespolo. Hai spezzato l'incantesimo! Ma non lasciare tutte le tue fiche a mamma chioccia. Non è che non ti abbiano mai fregato prima, sai cosa intendo. Corri a Point Prometheus. Discuteremo da uomini. Tu, io, un filetto sottomarino, è più Adam di quanto tu possa lontanamente immaginare. Per chi mi prendi? Per un malato di mente? Abbiamo buttato all'aria il pollaio di mamma chioccia appena lei ha deciso di farsi venire una coscienza. Non troverai niente qui, ragazzo, tranne forse i suoi ricordi. E quelli, credimi, è meglio lasciarli dove sono. Quella Tenenbaum non è come credi. Altro che Florence Nightingale. Il palco crollerà prima che tu riesca a dire «Boh, ho visto grandi truffe, e ho visto truffe fantastiche, ma quando attraversi a passo di valzer Rapture e Auschwitz senza nemmeno un graffio, hai ben più che l'angelo custode dalla tua parte». Sì, il composto sta facendo effetto. Gli effetti della suggestione mentale sono scomparsi, ma ci saranno di sicuro degli effetti collaterali. Trova la macchina dei plasmidi più vicina e valuteremo i danni. Aspetta un attimo. C'è ancora quella sostanza. Non l'abbiamo già vista nell'appartamento di Fontaine? La troveremo anche nel laboratorio di Souchong. Abbiamo creato la tua mente con molte porte chiuse e molte chiavi. Fontaine ha la maggior parte di quelle chiavi, ma non tutte. Ho progettato io il tuo corpo. Ma Souchong ha progettato la tua mente e ha insegnato a Fontaine come controllarti. Con un po' di fortuna, lo troverai nel suo appartamento a Mercury Fitz. Forse lì scoprirai parti di te che nemmeno Fontaine può raggiungere. We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Souchong designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Souchong's flat in Mercury Suites. Quando sarai libero dal controllo di Fontaine, potrai avere la tua vendetta. E potremo strappare le mie piccole dalle sue luride grinfie. Bentornato, piccolo. Benvenuto nel luogo in cui sei nato. Ah, sei diventato grande. Sei sempre stato alto, anche da bambino. Oh, che brutto carattere avevi. E tu sei ancora in collera, ya? Sì, sì, ce l'hai con Fontaine. Ma credo che dovresti avercela anche con me. Non sono stata una buona madre per te. E tu, del sangue di quanti innocenti ti sei macchiato le mani? Conosco anch'io questa vergogna. Ma bisogna dimenticare e lavorare insieme. Ma non tu. Dicono che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Qui ho creato un posto per i bambini, ma sei tu il loro salvatore. Tuttavia, c'è altro lavoro ancora da fare. Mentre dormi, lavoro su di te. In questa condizione mentale, che ora annullo, il controllo di Fontaine non è più totale, ma potrebbe ancora essere in grado di tirare dei fili molto spiacevoli. Hai commesso molti peccati, ma forse potrai redimerti. Hai salvato molte delle mie piccole. Sono in debito con te. È troppo pericoloso rielaborare i tuoi plasmidi nella condizione in cui ti ha messo Fontaine. Dovrai arrangiarti con quello che hai. Good. Ora segui la traccia fino a Mercury Suites. Sono sicura che lì troverai altro di questo lotto 192. Sapevo che c'era qualcosa sotto. Sempre segreti con Souchong. Sempre segreti. Deve tenere questo lotto 192 nel laboratorio vicino ad Apollo Square. Una volta però ho rubato di nascosto una dose e l'ho portata nel mio appartamento al primo piano. Non ho mai saputo a cosa servisse, ma intuivo che quel bastardo tramava qualcosa nell'ombra. Io lo tengo d'occhio. Sempre segreti con Souchong, sempre segreti. Deve tenere questo lotto 192 nel laboratorio vicino ad Apollo Square. Una volta però ho rubato di nascosto una dose e l'ho portata nel mio appartamento al primo piano, ma quelle scimmie l'avrebbero riportato di sopra nell'attico di Fontaine. Non ho mai saputo a cosa servisse il lotto 192, ma se Souchong faceva qualcosa in segreto, lo tengo d'occhio io. Bene, ora puoi tornare a usare la banca genetica. È il momento di... come si dice, fargliela vedere a quel figlio di puttana. Guarda la mia casa devastata da Fontaine e dai suoi porci. Perché? Chi lo sa, ma sono sicura che ci sia una risposta nell'appartamento di Souchong. Ah, non mi crederai. C'è stato un tempo in cui questo posto era bellissimo. Guarda la mia casa, devastata da Fontaine e dai suoi porci. Senza dubbio ha fatto portare i campioni dell'892 nel suo attico. L'ingresso sta nell'atrio, ma quel dannato affare è sempre serrato. Non mi crederei. C'è stato un tempo in cui questo posto era bellissimo. Hai riacquistato la libertà. Le droghe di Souchong non dovrebbero farti effetto. Prendi la batisfera per Point Prometheus. È il momento di sistemare questa faccenda. Il lotto 192 ha riorganizzato la tua intera struttura plasmidica. Avrei dovuto sapere che ti sarebbe servito un dosaggio maggiore. Dovrai localizzare un altro dosaggio per eliminare del tutto gli effetti. Good. Ora vai a cercare il laboratorio di Souchong ad Artemis Suites. Non c'è dubbio che lì ci sarà altro di questo lotto 192. Guarda questo cesso! Non è rimasto nulla! Mamma Tenenbaum ha detto che ci aiuterà. Esiste una terra chiamata Ippopandia! La terra abitata dall'Ippopondo! Io presto ci andrò con Mr. Bolla e la gireremo da cima a fondo! Se non troveremo un'ape muschiata, nemmeno una in tutto il mondo, ceneremo a miele e marmellata! Alla faccia dell'Ippopondo! Ma chi è? È Mio! Mamma Tenenbaum dice di star lontano da lui. È cattivo! Lui è quello che ci ha fatto male. Sta lontana da lui. Ehi! Come mai ci aiuti? Eccolo, è lui! Quello che ci salverà tutti! Mi piace! È quello che mi ha salvata! È qui per aiutarci! Abusivo! Parassita! Fuori da casa mia! You're not gonna take her! You won't have my little girl! Credete che Ryan vi aiuterà quando sarete in difficoltà? No! Fontaine! Fontaine è l'uomo che ci darà una mano! Ora della pappa, ragazzi! We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Souchong designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Souchong's flat in Mercury Suites. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. And we can keep my little ones out of his filthy hands. Abbiamo creato la tua mente con molte porte chiuse e molte chiavi. Fontaine ha la maggior parte di quelle chiavi, ma non tutte. Souchong ha progettato la tua mente e ha insegnato a Fontaine come controllarti. Potresti trovare le risposte nell'appartamento di Souchong a Mercury Suites. Bentornato, piccolo. Benvenuto nella città in cui sei nato. Sei arrabbiato con Fontaine, già? Yeah? Adesso conosci la verità. Tu sei il suo strumento. Riportato a Rapture per salvarlo. Del sangue di quanti innocenti ti sei macchiato le mani. Conosco anch'io questa vergogna. Come faremo a ottenere il perdono per le nostre colpe? Ma bisogna dimenticare e lavorare insieme. Dicono che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Qui, Ho creato un posto per le bambine, ma sei tu il loro salvatore. Vuoi fermarti qui o vuoi liberarle finalmente da questa terribile città? Mentre dormi, riduco il condizionamento mentale di Fontaine. Il suo controllo non è più totale, ma potrebbe ancora essere in grado di tirare dei fili molto spiacevoli. Su Jong! Bastardo! Guarda cosa mi hai fatto!